Europa 24. Cari ascoltatori, un saluto da Gigi Donelli, benvenuti a questo nuovo appuntamento con i temi europei. Ieri abbiamo parlato a lungo della nuova coppia sui top job a Bruxelles, Mogherini-Tusk, dunque Mr. Pesca, anche se ovviamente in questo caso è una signora, e invece il nuovo capo del Consiglio. Torneremo a parlare di loro, ma del ruolo di Federica Mogherini, che appunto dal Ministero Affari Esteri italiano a quello di fatto di responsabile della politica estera europea, si occupa fin da questa mattina invece il Parlamento. È infatti tempo di audizioni e tempo di una presentazione di fatto del programma, di quello che è appunto il ruolo di responsabile della politica estera. Se non che il tutto cade nel cuore della crisi che riguarda Kiev, Mosca, i rapporti europei con la Russia. Allora, Beda Romano ci aggiorna da Bruxelles su come è andata l'audizione questa mattina. Il ministro degli esteri italiano e futuro alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza, Federica Mogherini, è stato costretto a difendersi oggi dalle critiche di molti deputati europei che gli rimproverano un atteggiamento troppo filorusso nella crisi ucraina. Ascoltata durante un'audizione parlamentare dedicata alle priorità della presidenza italiana dell'Unione, la signora Mogherini si è difesa, affermando di condividere pienamente il comunicato del Consiglio europeo di sabato che definisce aggressione il comportamento russo in Ucraina. La signora Mogherini ha precisato che la Russia non è più in questo momento un partner strategico dell'Unione europea e che l'articolo 5 del trattato della NATO non può rimanere lettera morta. La norma prevede che un'aggressione contro un paese della NATO sia un'aggressione contro l'intera alleanza militare. Il tentativo del ministro italiano è stato così di rassicurare i paesi dell'est preoccupati da un eventuale nuovo imperialismo russo. L'audizione di oggi è stato un banco di prove in vista dell'incontro che il ministro avrà nelle prossime settimane, sempre nel Parlamento europeo, al momento della sua conferma ad alto rappresentante. La prova di oggi si è svolta tutto sommato bene, ma il rischio di nuove critiche è sempre dietro l'angolo. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Federica Mogherini dunque affronta i primi compiti in questo ruolo, anche se tecnicamente, come sapete, l'insediamento avverrà soltanto a novembre. Ora Jean-Claude Juncker, invece presidente della Commissione, rischia però di avere ben poche altre figure femminili nella prossima Commissione. C'è il rischio che il Parlamento proprio per questo possa votare contro. Dovete sapere o ricordare che il Parlamento ha una specie di potere bomba nei confronti della Commissione, potere bomba perché normalmente non viene mai utilizzato, ed è quella di respingere in toto la squadra del Presidente. Di solito si mandano dei messaggi e il Presidente della Commissione interviene dunque nella direzione indicata dal Parlamento. Ma sentiamo il servizio. 5-9, per ora Schulz batte Barroso sulle quote rosa e il tema di quante commissario donne sull'intera Commissione ci siano scuote anche il Parlamento. Martin Schulz rileva il problema. Non possiamo accettare, ha detto, una Commissione europea in cui ci siano 5 donne commissario su 28. Che messaggio stiamo dando agli europei, dice il presidente del Parlamento europeo, in seno al quale i socialisti hanno già minacciato di negare la fiducia se le cose rimarranno così, come spiega la portavoce del gruppo Marie Arena. Quello che è certo è che il gruppo dei socialisti e dei democratici non accetterà una commissione con una rappresentanza femminile minore di quella attuale. Al momento sono 5 le donne che sono state designate commissario: la ceca Vera Jourova, l'italiana Federica Mogherini, la svedese Cecilia Malmström, la bulgara Kristalina Georgieva e Margrethe Vestager, danese. Secondo la portavoce dei socialisti, è anche un pessimo esempio per le aziende. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E con questo è tutto per il nostro appuntamento. Vi ricordo stasera alle 21, Europa 24 sera. E vi ricordo come sempre che ritrovate tutto sul sito di Radio24.it. Un saluto da parte mia, appuntamento domani. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.